Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad. Veselo veče. Za službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JATA. Novo imenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza Jugoslavije. Sve mladiće volim, kako da odolim. Zeleno tražim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Raz, dva, tri, majče ki! Plamene zore, Balkan Rock, Udeberista, Sumaj Radio, Fabrična jutra, muzika, pop kultura e curiosità dal mondo jugoslavo. Balkan Rock, martedì 27 maggio. Buonasera, bentornati a Balkan Rock, musica e cultura pop dai paesi jugoslavi, dall'Europa del, come la chiamano adesso, sud orientale. Sì. Va bene, questa ho mandato subito in confusione. Sì, ma infatti sì, perché ho dei problemi oltre che con la destra e la sinistra, anche con Oriente e Occidente. Qual è la destra, qual è la sinistra? La mi viene in mente chi era, Albanese, Albanese. Pare, tanti anni fa. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Bella quella, un giorno la metteremo, così non c'entra niente col Balkan Rock, ma vabbè, la mettiamo. C'entro sempre, destra ci o sinistra, piace, anche c'entra perché sempre, soprattutto di questi tempi. Soprattutto di questi tempi, e infatti noi veniamo da un lunghissimo weekend elettorale ai seggi dove abbiamo lavorato duramente ed eccoci tu qua. Tu hai lavorato, io no. Beh, tu hai lavorato nelle stanze oscure del potere a casa. Come no, altro che. Benissimo, bentornati. Torneremo un po' a parlare anche stasera delle alluvioni disastrose che hanno colpito Bosnia, Serbia e Croazia. Intanto sabato scorso abbiamo raccolto un po' di materiali, un po' di fondi da inviare alle persone sfollate. C'è stato un punto di raccolta centralizzato a Torino promosso dal collettivo Azione Pace, un collettivo nato tanti anni fa durante il conflitto, durante la guerra civile. Sì, che si è occupato appunto di portare gli aiuti, di prestare cure mediche ai bambini che venivano dalle zone colpite dalla guerra. Poi nel corso degli anni è sopravvissuto questo, sì, collettivo si ha avuto meno lavoro sicuramente rispetto al periodo degli anni 90, ma comunque è sopravvissuto occupandosi anche di continuare a prestare cure mediche in quel degli ospedali di Torino per tutti quanti, per chi veniva dalle zone disagiate. Chiaramente la transizione ha lasciato appunto macerie dietro per molti anni anche dopo il conflitto. Quindi è tornato attivo questo collettivo, si è appunto ha organizzato un punto raccolta centralizzato a Torino e noi da Collegno abbiamo raccolto, partecipato a questa cosa. Vuoi dirci qualcosa? Sì, Valentina? Abbiamo raccolto moltissimo materiale. Intanto volevo ringraziare tutti i collegnesi che hanno partecipato alla raccolta, ma soprattutto l'Arci Valsusa che ci ha prestato le stanze, i magazzini e anche un bel po' di manodopera per appunto raccogliere questo tipo di materiali, e anche Casa Wiwa che ci ha regalato un bel po' di materiali di igiene, saponi piuttosto che pasta Iris, quella per intenderci insomma sciolta, no? Che non ha l'imballaggio, insomma Abbiamo avuto un buon riscontro. Abbiamo avuto un buon riscontro anche per la causa Kovacevic, che appunto, come dicevamo la scorsa puntata, si tratta di Dušan, un bambino di 5 anni che presto dovrà essere operato per la seconda volta presso l'ospedale del cuore a Massa. E i genitori di Dušan però hanno appena perso la casa in una, appunto, a causa della catastrofe alluvionale delle settimane scorse, e dispongono esclusivamente della somma di denaro per il viaggio in Italia e per l'operazione. Quindi è necessario appunto dare una degna convalescenza a questo bimbo, che farà un'operazione davvero molto molto complicata, riuscire a raccogliere una somma di denaro che permetta la ristrutturazione almeno di una stanza, quella in cui Dušan appunto potrà poi riposare e fare una degna convalescenza. Quindi per questa causa soprattutto si è mosso il console onorario italiano a Bagnaluca, il professor Danilo Capasso, che ringraziamo e salutiamo se è all'ascolto, e per cui per tutti gli estremi bancari e le modalità di raccolta denaro potete fare riferimento a me o alla pagina tranquillamente di Balkan Rock e My Radio, la pagina Facebook. Mi chiedo se a Bagnaluca hanno internet, non so se si sono inzuppate anche le linee telefoniche e quindi anche quelle ADSL. Credo che qualcosa ancora riescano a... penso che riescano a comunicare, ecco. Penso che quello sia il problema minore. Okay. Per il momento ci sono altri problemi molto molto più più urgenti. Va bene, prima di sentire un brano, ricordo anche, per avere ulteriori notizie su quello che è successo nelle ultime 2 settimane, ultimi 10 giorni, insomma, da quelle parti, c'è anche il nostro, chiamiamolo collega, della trasmissione Balcania, che va in onda sulla radio del centro sociale Rebeldia di Pisa, che si chiama, ricordamelo, Radio Roar, esattamente, trasmissione Balcania, è andata in onda 21 maggio scorso l'ultima puntata, e appunto ha affrontato questo tema con diverse interviste, tra cui quella con Marco Della Croce, fondatore della Onlus Macondo 3, che appunto da anni opera in Bosnia, con Alessandro Di Meo, responsabile dei progetti di cooperazione in Serbia dell'Onlus Un Ponte Per, e con Matteo Tacconi, responsabile dell'Agenzia di Informazione Rassegna Est sulle prossime elezioni europee, che magari faremo qualche cenno anche noi più tardi. Benissimo. Quindi Radio Roar Balcania. Radioroar con 2 R finali.it. Org. Ripetiamo, www.radioroar.org. Esattamente. Benissimo, quindi cosa ci fai ascoltare? Ci andiamo, ma non lo so, anche questa volta la playlist è tutta tua, quindi dovresti dirmelo tu. Io leggo qua Divlje Jagode, il vecchio gruppo hard rock dove cantava Alen Islamović, dopo cantante dei Bielodugme, ultimo cantante dei Bielodugme dell'ultimo periodo. Primo cantante delle Divlje Jagode. Sì, primo e unico, insomma. Unico e inimitabile, aggiungerei. Quindi questo è Moje Dilbere, Divlje Jagode. sera per la compagna Do Bosco e il compagno Acampora che sono all'ascolto. Vi mandiamo un bacio e continuiamo a parlare di quel che è il problema delle mine in Bosnia Erzegovina, perché qua mi rifaccio a un articolo di Osservatorio Balcani, però preso da un'intervista su Radio Capodistria. Voi sapete che nei giorni scorsi, a causa delle alluvioni, un numero imprecisato di mine, eredità delle guerre degli anni 90, sono state spostate dalle acque torrenziali durante le recenti e devastanti alluvioni, un pericolo reale per la popolazione di Bosnia, Croazia e Serbia. Se volete ascoltare appunto il servizio completo di Francesco Martino per il GR di Radio Capodistria, potete farlo direttamente sul sito di Osservatorio Balcani. Quindi i campi minati, una delle eredità più drammatiche lasciate dai sanguinosi conflitti che accompagnano il disfacimento della Jugoslavia negli anni 90, appunto sono stati anche loro vittima delle alluvioni. Solo in Bosnia le mine inesplose sono ancora più di 100.000 e dalla fine della guerra nel 95 l'esplosione accidentale di Ordigna ha causato più di 600 morti e 1.700 feriti. Le devastanti alluvioni che hanno colpito Bosnia, Serbia e Croazia rischiano ora di riaccendere il pericolo, poiché molte mine sono state spostate dalla rabbia dei fiumi e dalle innumerevoli frane, rendendo in gran parte vano il lavoro di localizzazione dei campi minati degli ultimi anni. A rischio non solo la popolazione bosniaca, ma anche quella della Slavonia croata, visto che molti ordigni sono di plastica e galleggiano, non è però escluso che mine siano state trasportate dai fiumi in piena fino al territorio serbo. Per rispondere al pericolo, i centri di sminamento di Croazia, Bosnia e Serbia si sono riuniti ieri nella regione della Spačva croata. Secondo gli esperti, nei prossimi giorni la possibilità di esplosioni è molto alta. La situazione viene monitorata in attesa che col rientro delle acque negli alvei dei fiumi si possa tornare a lavorare sul terreno. Il centro di sminamento bosniaco, dove i rischi sono più elevati, ha invitato i cittadini alla massima prudenza. In caso di individuazione di mine inesplose, l'invito è quello a segnalare il sito e avvertire le autorità. Assolutamente sconsigliato toccare o tentare di spostare gli ordigni. Questo è quanto per quanto riguarda la situazione mine. Vi terremo aggiornati, insomma cercheremo di informarci quanto più possibile su questo, che è un problema davvero molto molto molto grave. E per quanto riguarda appunto le serate di finanziamento, che sono appunto atte a portare un po' di aiuti, di materiali alle popolazioni colpite dalle alluvioni, segnaliamo una serata che è quella di domani sera, mercoledì 28 maggio, a Milano, nel locale dal nome L'Elettrauto, una serata in collaborazione con Natasha Blagojevic, che appunto hanno deciso di dare un piccolo contributo. Infatti, per ogni drink che sarà consumato in questa serata, L'Elettrauto devolverà all'associazione Emergenza Serba un euro. Che cos'è L'Elettrauto, scusami? È un locale. Ah, si chiama così? Sì, si chiama così. Okay. Un locale che si chiama L'Elettrauto, io non lo so, non lo conosco. Vabbè, sarà curioso. Carino, insomma. Va bene. Se volete andare fino a all'Elettrauto. E insomma, per ogni drink, dicevo, sarà devoluto un euro all'associazione Emergenza Serba per l'acquisto di pannolini, materassi, lenzuola, letti mobili, vestiti, torce, batterie, stivali di gomma, cibo in scatola, prodotti per igiene, calze, indumenti intimi e disinfettanti. L'Elettrauto si trova in via Cadore, angolo via Pinaroli. Benissimo, allora possiamo andare a sentire un altro pezzo? Va bene, che ci fai sentire? Sentiamo un gruppo Film. Va bene, Diete Ulitze. Diete Ulitze, il ragazzo di strada. Ragazzo di strada, sì, ricordo un po'. Ragazzo di strada di chi era? Dei Corvi, no? Il ragazzo di strada, no, era della. Boh, devo informarmi. Non lo so. È un classico beat italiano di fine anni 60. Sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Dai, che te lo ricordi. Non sarà Adriano Celentano? No, non è Adriano Celentano. Adesso ci I Nomadi. E abbiamo ma che Nomadi, per favore. Dai, sentiamoci Film, va. Mene. Jer ja sam djete Ok, torniamo a parlare delle alluvioni. È questo l'argomento. Anzi, dovevo dire di chi era il ragazzo di strada. Avevo ragione, erano i Corvi, un pezzo del 66, beat italiano. E casualmente anche questo brano del gruppo Film, un gruppo new wave pop, una via di mezzo tra new wave pop degli anni 80, un gruppo di Zagabria. Cosa ci racconti adesso, Valentina? Sei tu quella che si è preparata stasera? So, se volete posso partire con le barzellette di Pierino, pure di Muio e Casso. Perché vuoi dire che hai esaurito gli argomenti? No. No, volevo dire che ero impreparata, stavo pensando trallallalla. No, volevo raccontarvi qualcosa riguardo alle affluenze molto molto scarse per quanto riguarda le elezioni europee in Europa, soprattutto per quanto riguarda i Balcani. Ecco, ecco, appunto, sui Balcani. Slovenia e Croazia, a questo Slovenia punto e Croazia, sono gli unici che sono entrati nell'Unione Europea al momento. Al momento sì, ma se parliamo di Balcani in senso geografico ci farei rientrare anche Bulgaria e Romania. Ah beh, sì, ok. E quindi appunto una prevalenza delle forze di centrodestra ai noi e un'affluenza molto bassa alle urne ha caratterizzato proprio il versante balcanico del voto europeo. Unica eccezione è la Romania, che ha registrato l'affermazione dello schieramento di centrosinistra al governo. Incredibile. Un'altra delle cose incredibili delle elezioni 2014. Bisogna vedere che cos'è centrosinistra in Romania. Non lo vogliamo sapere. Anche in quel paese tuttavia la partecipazione al voto è stata molto molto bassa. Allora partiamo con ordine, andiamo in Croazia, dove appunto il membro più giovane dell'Unione Europea, alla quale ha aderito nel luglio 2013, ricordate la scorsa estate, il centrodestra ha ottenuto il 41,5% dei voti con 5 degli 11 europarlamentari spettanti. Molto staccata al 29% la coalizione di centrosinistra al potere. Il grande perdente è certamente il premier socialdemocratico Zoran Milanovic, che ha parlato di importante lezione per noi. Tomislav Karamarko, il leader conservatore Hades, ha dedicato la grande vittoria alle popolazioni alluvionate della Slavonia. Gli elettori croati sembrano aver punito la compagine governativa per il protrarsi della crisi. Siamo l'unico paese dei 28 a non mostrare segni di ripresa, ha detto Karamarko. Karamarko è davvero un nome imbarazzante. Molto sì, bene, è andata una nuova formazione ecologista di sinistra che ha ottenuto il 9,5% un europarlamentare. Sono i verdi praticamente. Sì, croati. Ma hanno sempre avuto il partito verde croato è nato subito nel 90, appena No, in realtà questa è una nuova formazione, infatti si stanno preparando molto, molto duramente per le elezioni del prossimo anno, le elezioni croate, non europee. Dopo lo sbarramento del 5% anche una formazione di destra euroscettica. Ma li pullulano, eh. Sì, figuriamoci, in tutta Europa. Comunque è stata molto bassa in Croazia l'affluenza, dove ha votato solo il 25,2% degli scandaloso. degli elettori. Vabbè. Esatto. Andiamo in Slovenia, dove c'è registrato un successo dei conservatori. Sono state confermate le previsioni della vigilia. Il vincitore è il nostro amico Janša del Partito Democratico Sloveno, al quale è andato il 24,8% e 3 degli 8 eurodeputati. Alle sue spalle è un'altra formazione conservatrice formata da Nova Slovenia e Partito Popolare Sloveno con il 16,4 e 2 seggi a Strasburgo. Questa Nova Slovenia sembra una canzone dei Laibach. Sarebbe meglio fosse una canzone dei Laibach, secondo me. Il partito Veriamem, che significa credo, di centrosinistra, ha ottenuto il 10,6% e un seggio. Ma anche in Slovenia il voto europeo è andato in secondo piano rispetto alle parlamentari anticipate che dovrebbero tenersi a luglio. Bassissima la partecipazione alle europee, anche qua ancora meno della Croazia, con solo il 24% degli sloveni recatisi alle urne. Invece c'è stato un successo anche qua del centrodestra in Bulgaria, dove il partito conservatore GERB, all'opposizione dell'ex premier Boyko Borisov, ha ottenuto il 30% e 6 dei 17 seggi all'Europarlamento. Molto distanziato il Partito Socialista, che appoggia il governo con un deludente 18,5% e 4 seggi, quasi alla pari con il partito della minoranza turca, che ottiene il 18,4 e 4 seggi. Altre due formazioni hanno superato lo sbarramento. In definitiva, a Strasburgo la Bulgaria invia esponenti tutti europeisti, ma l'affluenza alle urne ha toccato il minimo storico del 35%, cosa questa che parla di una disillusione nei valori dell'Europa unita. E l'unica in controtendenza è la Romania, dove, come del resto nelle previsioni, hanno vinto col 43% le forze di centrosinistra al governo, con 16 dei 32 eurodeputati spettanti. Delusione nel centrodestra con il Partito Nazionale Liberale, che ha preso solo il 15% dei seggi. Male anche l'ex partito del presidente Traian Băsescu al 12%. In linea con gli altri paesi dei Balcani, anche in Romania l'affluenza è stata molto bassa, ovvero al 32,1%. Ma la cosa divertente è stato un elettore croato che è entrato nel seggio. Questa è una curiosità, insomma, che volevo raccontarvi, perché sta girando proprio sui social network la foto di una scheda elettorale in Croazia con scritto da parte di un elettore, e qua chiamo il mio traduttore ufficiale Djordjevic, l'elettore scrive sulla scheda elettorale: Draghi... sì, ce l'ho davanti, sì, Draghi Drugeti, vabbè, perché le elezioni cadevano proprio il 25 maggio, nel giorno del compleanno di Tito. Allora lui scrive sulla scheda elettorale: Draghi Drugetito, tebi strecian rogen dan aove lopove svenabiam nak, ovvero? Nakurac. Non si possono dire le parolacce per radio. Ma non è vero, dai, in questa fascia oraria si possono dire. Va bene, ok, te lo concedo. Sì, caro compagno Tito, a te un buon compleanno, mentre a tutti questi ladri che si fottano, tipo, sì, cioè, adesso per non fare proprio, sì, esatto, la traduzione esatta, letterale, per non scendere nei particolari, sarebbe che si fottano. Sì, 25 maggio, ne abbiamo parlato due trasmissioni fa, che era il giorno della gioventù, quello in cui si festeggiava, sì, il compleanno di Tito, ma era anche diciamo una festività comandata dello Stato, in cui diciamo si festeggiavano i progressi del socialismo, per così dire, con un sacco di manifestazioni di vario tipo. E lo dedichiamo al compagno Tito per un buon compleanno il prossimo pezzo, che non c'entra proprio niente, non penso che gli sarebbe piaciuto. Abbiamo, sì, Tifa, no? Non so neanche che brano è, perché non c'è scritto. Tifa è, sì, un altro bosniaco, un altro bosanaz, sì, anche lui ha cantato con i Bielodum per un breve periodo. Come si chiama Svejednoje. Svejednoje. Svejednoje. Večeras nisam umoran, večeras hoću da se dobro osjećam, večeras hoću noći lude, noći besane. Meni treba sve od tebe, E allora questo era Tifa con Svejedno e adesso avevamo già degli ascoltatori in quel di Belgrado, abbiamo addirittura degli ascoltatori che ci ascoltano da Lubiana. Allora salutiamo Tamara. Esattamente. La nostra amica Tamara. La nostra amica Tamara che ci ascolta da Lubiana e poi anche i nostri radioascoltatori torinesi affezionatissimi, tutta la famiglia Allocco Grubac, al quale diamo un bacio. I morosini, come dicevamo l'altra volta. I fidanzatini. I fidanzatini, sì. infatti. Allora continuiamo con le notizie della giornata. È morto Dobrica Ćosić. Vabbè, è giunta l'ora anche di Dobrica Ćosić. Esatto. Famoso scrittore serbo, intellettuale, dissidente e nazionalista. Un articolo che abbiamo preso da East Journal, che vi invitiamo a leggere, perché è una fonte di informazione a cui noi attingiamo molto molto molto volentieri. Sono curioso di sapere cosa dicono su Ćosić. Qualcuno, scherzando, diceva che Ćosić è morto, che gli è venuto crepa cuore quando ha visto le forze speciali croate a Obrenovac che salvavano i serbi. Dicono che è morto per quello, poi non lo so. È sempre molto divertente questo umorismo nero balcanico, a me non so. Ma sentiamo le fonti serie adesso. Le fonti serie, va bene, da un articolo di Giorgio Fruscione. È morto appunto la settimana scorsa a Belgrado all'età di 93 anni Dobrica Ćosić, figura intellettuale di spicco che ha dominato nel bene e nel male gli ambienti letterari e politici della storia della Serbia. Nato nel 21 addirittura, quindi insomma non era propriamente di primo pelo, a Velika Drenova, nella Serbia centrale, in quello che allora si chiamava Regno di Serbi, Croati e Sloveni. Ćosić rappresenta una delle figure più controverse della storia letteraria e politica della Jugoslavia. Fino alla morte, infatti, l'opinione pubblica è rimasta molto divisa circa il ruolo che Ćosić ha avuto per la sua comunità, appunto la comunità serba. Già membro del clandestino Partito Comunista, nel 1941, con l'invasione della Jugoslavia da parte delle forze nazifasciste, Ćosić si unisce alle formazioni partigiane di Tito. Ed è proprio durante la Seconda Guerra Mondiale che inizia la carriera politica e anche letteraria, che proseguirà fino agli anni della vecchiaia. Il suo primo romanzo di successo, Daleko e Sunce, Il sole è lontano, viene pubblicato nel 1951 e dopo di esso ne seguiranno molti altri, per i quali riceve diversi riconoscimenti nazionali e un'enorme popolarità, fino a essere più volte definito padre della nazione. Sì, è uno da grande jugoslavo, è diventato grande serbo poi negli anni 90, ormai già bello stagionato. Infatti, nel 68, in una Belgrado che è teatro di grandi manifestazioni studentesche, si distacca per sempre dal partito e dall'ideologia di regime che aveva fedelmente servito fino a quel momento, accusando la leadership jugoslava di favorire i nazionalismi locali attraverso il progressivo decentramento di poteri. In favore infatti di un forte potere centrale delle istituzioni federali, denuncia la scelta di garantire maggiore autonomia alle due province autonome di Vojvodina e Kosovo. Inizia così la propria attività da dissidente, durante la quale continuerà a scrivere diversi romanzi di successo, divenendo uno dei membri più prominenti dell'Accademia Serba dell'Arte e della Scienza, la SANU, Srpska Akademija Nauke i Umetnosti. Nel 1984, quando la Federazione Jugoslava avverte i primi segnali di crisi, fonda l'Associazione per la Difesa della Libertà di Pensiero e di Espressione, intensificando il proprio attivismo contro la Jugoslavia socialista. Nell'88 sostiene attivamente il programma politico di Milošević, atto per il quale perde molti dei suoi lettori che gli restituiranno personalmente i suoi libri. Nel 89 sostiene la fondazione del Partito Democratico Serbo in Croazia e un anno più tardi dell'omonimo partito in Bosnia, a cui capo vi era il leader serbo-bosniaco Radovan Karadžić, attualmente sotto processo all'AIA, come sapete, per crimini contro l'umanità e genocidio. Quando nel 1992 la Jugoslavia socialista cessa di esistere, diventa il primo presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia, composta da Serbia e Montenegro, per poi essere deposto un anno più tardi per essere entrato in conflitto con lo stesso Milošević. Nel 2000 si unisce alla piattaforma politica Otpor, a cui partecipano anche Zoran Đinđić e Vojislav Koštunica, il cui obiettivo è quello di spodestare Milošević per poi successivamente pentirsene, in quanto movimento finanziato con soldi stranieri, come sappiamo, della Fondazione Soros. Esatto. Nella sua ultima intervista pubblica rilasciata al periodico Nedeljnik appena qualche settimana fa, ha fatto diverse dichiarazioni a proposito del Kosovo, per il quale proponeva una divisione della regione sin dagli anni 60. Ha dichiarato che ormai è una questione conclusa per la quale i giovani non devono sprecare energie e risorse. Inoltre, secondo Ćosić, il popolo serbo non deve più condurre guerre in quanto non ne possiede più il potenziale biologico e patriottico, e che la pace è l'unica conduzione della nostra esistenza. Insomma, si stava preparando a schiattare in pace, evidentemente. Queste ultime dichiarazioni di Ćosić descrivono bene la controversa personalità che ha caratterizzato la sua intera esistenza, vissuta sia da accademico di successo che da leader del popolo. Infine, la sua attività letteraria si è mescolata per necessità con quella politica, partecipando attivamente a tutti i movimenti politici mainstream che hanno contrassegnato la vita del proprio paese, oscillando di continuo tra il ruolo di attivista e quindi oppositore, compromettendo, scusatemi, allo stesso tempo la propria credibilità sia di intellettuale che di padre della nazione. Allora, di Ćosić potete leggere appunto Daleko e Sunce, Il sole lontano del 51, Koreni, Radici del 54 e Deobe, Divisioni in tre volumi, scritti fra il 61 e il 63. Tutto tradotto in italiano? Assolutamente no. Non è tradotto Ćosić. Io non ma credo. Ma è anche candidato al premio Nobel, mi pare. Mi stai facendo delle domande? Mi pare, non vorrei dire una sciocchezza, ma mi pare di sì, che anni fa. Vabbè, comunque, non importa. Ma è suo quello, il ruolo della mia famiglia nella rivoluzione mondiale? Sì, mi sì. Ecco, sì, quello è l'unico libro che ho letto di Ćosić. Quello è sicuramente tradotto. Degli altri, quelli, insomma, classici che si studiavano alle superiori nell'ex Jugoslavia, no? Non penso di no, ma insomma, non prendetela come informazione certa. Infatti. Va bene. Ci andiamo a sentire Boris Novković. Questa canzone casca a pennello, proprio si chiama Tamara. A questo punto non lo so se le piacerà, ma la dedichiamo alla nostra amica, la mia concittadina Tamara, insegnante di italiano presso l'Istituto per la Cultura di Ljubljana, Istituto Italiano di Cultura di Ljubljana. E buon ascolto, Tamara. Da me barem nešto udari, bit će rata, kažu svi, ali ja ću umrijeti od ljubavi, ko mi tebe uze, Tamara, prodala si suze drugima. Noćima ja sanjam tvoje tragove, kuda idu izgubljene djevojke. Ko mi tebe uze, Tamara, prodala si suze. Ko mi tebe uze, Tamara. Eccoci qua. Abbiamo ascoltato Tamara, che dedichiamo alla nostra amica omonima di Lubiana. E allora salutiamo tutti gli altri amici nostri che ci stanno ascoltando, anche la famiglia Gobetti Guarino all'ascolto con Paso e tutta l'allegra oh, compagnia. Ci sono proprio tutti stasera, cani e porci, ma accendete ma cani e porci, li fai scappare subito. Accendete la televisione, non ascoltate Balkan Rock, sto scherzando. Bravi, bravi, bravi che vi nutrite di cultura e di musica balcanica. Ma noi non abbiamo più niente da dire. Come non abbiamo più niente da dire? Beh, abbiamo da dire in bocca al lupo al nostro amico Eric per il suo nuovo documentario, quello che parlerà di Gavrilo Principe e di Franz Ferdinand, di Francesco Ferdinando. Sì, infatti. Un documentario autoprodotto, insomma, con il metodo del cosiddetto crowdfunding, insomma, completamente sostenuto da simpatizzanti, amici, sostenitori di questo progetto, per un documentario storico che ripercorre esatto gli ultimi giorni dei due personaggi che appunto si incontrano e si scontrano a Sarajevo in un famoso ponte. Infatti ho pensato proprio a Eric oggi leggendo un articolo su Osservatorio Balcani che parlava proprio della controversa figura di Gavrilo Princip, amato e odiato, studiato in modo molto diverso nei libri di scuola e nelle varie scuole dal popolo bosniaco che lo vede proprio come un oppositore, un personaggio negativo. Sì, mentre... da un lato il terrorista e nazionalista serbo, dall'altro lato patriota per l'emancipazione delle popolazioni jugoslave dagli imperi, sia quello austro-ungarico che quello ottomano. Infatti, non ne parleremo nei prossimi giorni, proprio perché avremo di nuovo nei prossimi giorni il compagno Gobetti, DJ Gobetti. Sì, sentiremo magari anche in maniera un po' più approfondita. Certo, da parte proprio di uno storico, quello che è successo. Documentario, appunto, su come funziona, di cosa parla, qual era l'idea, quali erano i propositi, quando uscirà e come si possono donare i soldi, partecipare al crowdfunding per realizzare appunto questo documentario. Anche perché quest'anno corre proprio il centenario nel 2014 appunto dell'omicidio di Franz Ferdinand, che è avvenuto come sappiamo nel 1914. E allora andiamo ad ascoltarci. Sentiamo qualcosa di più movimentato adesso. Sì, questi sono i Cudi Idioti e il pezzo si intitola Io sono dittatore. Questo allora. È metà in italiano, metà in croato. Sì, ci piace tanto questo miscuglio ci linguistico. I Cudi Idioti, purtroppo se n'è andato il cantante Tusta l'anno scorso. Ahimè, e hanno dedicato a Novi Sad una strada. Una via, esatto. Hanno dedicato una via al cantante dei Cudi Idioti, che si trova nella zona della città proprio dove sono concentrati quei due o tre locali dove si suona dal vivo. Sì, vicino proprio alla facoltà, alla zona delle facoltà e agli studentati, quindi nella zona diciamo studentesca della città. E tanto di cappello all'amministrazione comunale di Novi Sad per questa scelta. Ci andiamo a sentire i Cudi Idioti. Ludi kao ja, više nikad ne. Erano i Cudi Idioti, storico gruppo punk istriano di Pola, con il brano Io sono un dittatore, cantato per metà in croato e metà in italiano. Sì, anche se la parte in italiano non l'ho capita bene, devo dire. Proprio quella in italiano, sì. Va bene, dopo te lo leggi il testo. Uno dei gruppi più amati punk rock dell'ex Jugoslavia, grandi Cudi Idioti. Ma di Pola o di Rijeka? Di Pola, vero? Di Pola, sì. Tra l'altro qualcuno postava sulla pagina del nostro gruppo un altro musicista, cantautore istriano che si chiama Franzi Blaškovic, nome d'arte Gori Uši Vinetu, cioè bruciano le orecchie di Vinetu. Vinetu, il famoso personaggio pelle rossa di fine 800. Sì. È un personaggio a cui andrebbe dedicata qualche parola in più, magari lo faremo una monografia sugli istriani. È un tipo veramente assurdo che si concia in maniera folcloristica istriana, parla questo dialetto che non parla più nessuno e che penso per metà è inventato da lui stesso, che è appunto un miscuglio di lingue, idiomi, dove ci mette italiano, veneziano, tedesco, inglese, montenegrino, croato, eccetera eccetera. Il pezzo che hanno postato, mi piacerebbe farlo sentire, ma non abbiamo ancora questa possibilità di far sentire i brani da YouTube. Magari riusciremo a risolvere questo problema tecnico. Si chiama Cadie Papa Biomali, quando Papa era piccolo. Deve essere divertente, uno che gioca tutto sull'ironia, sul sarcasmo. È una specie di local patriota, tipo, ma nulla a che fare con il local patriotismo destroide, però. Gori Uši Vinetu, credo che sia ancora in giro, ancora attivo, però non suona mai al di fuori della sua Istria, però. Ed è amico dei Cudi Idioti, hanno fatto anche insieme un album anni fa, nel 94 mi pare. E c'era un brano fantastico che si chiama Turbo Cattolico Peste Balcanica, un vero e proprio inno. Mi dispiace che non ce l'abbiamo stasera da far sentire. Vabbè, possiamo fare la prossima settimana senza alcun problema. Sì, magari prepareremo qualcosa del genere. A proposito della Croazia, tornando a parlare del disastro, dell'alluvione, un'altra curiosità che ci segnala Christian sul nostro gruppo su Facebook, per parlare male ancora dei preti e degli ecclesiastici. L'altra volta dicevamo del rappresentante della Chiesa ortodossa che diceva che l'alluvione è una punizione divina per i facili costumi e per la tolleranza verso i gay, nonché i tentativi di fare una gay parade anche in Serbia. Invece in Croazia, a Gunj, c'era una delegazione con un cardinale, non so quale, in questa città alluvionata. Si sono presentati lì tutti vestiti di tutto punto, con tanto di fotografo, e volevano a disposizione quattro barche della polizia per andare a farsi delle foto vicino ad una chiesa sommersa, proprio nel momento in cui si stava effettuando l'evacuazione della gente. Loro in quel momento volevano per sé questi mezzi, questi scafi, per farsi disturbando, le foto, l'azione, tipo... disturbando l'azione di salvataggio, proprio una roba assurda. Sì, mi viene in mente adesso che non c'entra niente assolutamente, però sai che io faccio sempre queste associazioni di idee. Tipo psicoanalisi, va esatto, bene. Esatto. Sentiamo. Allora posso confessarvi. No, mi veniva in mente il film che è uscito in questi giorni nelle sale, Padre Nostro, che abbiamo avuto il piacere di vedere proprio quest'anno al Herzegovina Film Festival, di cui non ricordo il titolo originale, tu lo ricordi? No, non lo ricordi neanche tu e lo stai andando a cercare. Vi spiffero quello che fa in diretta il mio regista qua in comando di regia. Sì, un film molto carino, insomma, abbiamo avuto da ridire sul finale, un po' sul modo un po' leggero che ha di trattare certi temi. Mi viene un po' da dire anche come il film di Dragovic, Parada, che parla. Sì, molto light. Esatto, una specie di condanna light. Come per accontentare un po' tutti, no? Faccio una condanna al mondo ecclesiastico, però la faccio e la butto un po' sul ridere, così insomma non se la prende nessuno, esattamente come ha fatto Dragovic con Parada, appunto facendo una critica abbastanza forte a quello che è il mondo della destra nazionalista serba, che si vede sempre in contrapposizione con il mondo LGBT. Come si dice? LGBT, sì. Per cui appunto fa una condanna molto, molto forte, ma la maschera un po' con questa commedia, no? Un po' per, secondo me, per calmare gli animi, per buttarla sempre un po' sul ridere, che va, sì, bene, esatto. Sempre. Insomma. Sì, è la storia di questo prete che viene mandato ad esercitare il suo ruolo su un'isoletta, mi pare un'isola, sì, proprio un paesone con la mentalità provinciale, bigotta, dove tutto sembra scorrere tranquillo. Poi sotto sotto, per farsela passare nella noia provinciale, ci sono un sacco di tresche, avventure, avventurine, tradimenti, eccetera. Per fronteggiare, quindi cosa succede? C'è un boom della vendita dei preservativi, chiaramente, e quindi questo prete qua non sa come intervenire per salvare, tra virgolette, le anime perdute e il seme sprecato, in particolare le nascite di questa isoletta che diviene sempre più un paese di vecchi. Esatto, vuole fare qualcosa e decide di bucare i condom, organizza tutta un'operazione in cui prima ancora in combutta con il tabaccaio, che è il principale punto vendita dei preservativi, li buca, creando un disastro, insomma. Sì, una serie di situazioni comiche, tragicomiche. Tragicomiche, sì. Sinceramente non mi ha fatto impazzire. Cioè, ma io mi sono a parare, se... mi sono divertita, devo dire che se ci sono critica, delle una critica blanda, e di critica ce ne vuole in Croazia su per questo quanto riguarda il ruolo della Chiesa. Su questo sono d'accordo, la critica è molto molto blanda, come dicevamo prima, la mette un po' sul ridere, invece ci sarebbero delle cose. Quindi fammi capire come è intitolato in Italia, come è uscito in Italia questo film. Padre Nostro, 2013 è uscito, giusto? 14. No, 13. 13, perché l'abbiamo visto proprio quest'anno all'Herzegovina Film Festival, per cui io credo che sia proprio 13. Ma possiamo andare a sentire il prossimo brano, che ne dici? Sì, direi di sì, poi dopo diremo anche il regista e il resto, se avremo tempo, perché mancano pochi minuti fino alla fine della trasmissione. Ci andiamo a sentire un classico dei Zabranjeno Pušenje, Zenica Blues, Blues di Zenica, la città industriale bosniaca. Questo è proprio un classicone, un evergreen. Un evergreen degli anni Ottanta, cose che ci piacciono a noi. U Zenicu, kada pođem ja, prati me 5-6 drotova, okružni su dijare ko 12 godina, 12 godina strogog zatvora. Okružni su dijare ko 12 godina. godina, 12 godina s trovom zatvora. Tužna je moja sudbina, ženu mi krećo Hakija, krećo Hakija, presudila mu čakija, ne razumiješ ti to druže sudija. Krećo Hakija, presudila mu čakija, ne razumiješ ti to druže sudija. Da bi ja to ne pričam. Zenico, mrzim svaki kamen tvoj, zbog tebe ja mrzim život svoj. Ko preživi 12 godina u kape domu Zenica, ta je pravi hađija. Ko preživi 12 godina... E, finalmente abbiamo trovato il titolo esatto del film di cui stavamo parlando. Si chiama Padre Vostro, non Padre Nostro, Padre Vostro di Vinko Bressan, un film del 2013, appunto parlo di questo giovane prete che vive su una piccola isola e ha un'idea appunto per contrastare il calo delle nascite, sabotare i contraccettivi, quindi succede che c'è un'onda di nascite indesiderate che spinge però i neogenitori in direzioni inattese, non esattamente come lui avrebbe voluto. Se volete guardarlo, si trova facilmente in streaming, mi pare, su Cineblog. Se volete mandateci anche dei commenti, magari possiamo poi citarli nella prossima trasmissione. Noi invece siamo arrivati alla fine, alla frutta un po'. Anche tu vuoi aggiungere qualcosa, che poi togliamo il disturbo? No, io non aggiungo niente se non in presenza del mio avvocato. Va bene, come vuoi, adesso cos'è? Sei diventata un personaggio pubblico, cioè una candidata, e quindi non si può dire, ma sono passate le elezioni però. Una candita, va bene. Niente, sono contento che c'erano un sacco di nostri amici in ascolto stasera. Continuate così, dateci, se no ci sentiamo tanto soli per le trasmissioni, interagite con noi attraverso la nostra pagina Facebook, ma soprattutto veniteci a trovare il martedì sera dalle 21 alle 22 presso i nostri studi di My Radio, perché abbiamo voglia insomma di chiacchierare con voi, non solo tramite i social network ma anche proprio a microfoni aperti. Ecco, intanto Eric ci manda la pagina del suo documento di cui abbiamo parlato prima, su Gavrilo Princip e sul fatidico 1914, sarà intitolato Sarajevo Rewind. Esatto. Si dice Rewind. Rewind. Sì, adesso io Rewind, ho la pronuncia calabra un po', okay, un po' come tu. Tutti e due. Un po' come allora, tu. Leggiamo, se c'è qualcuno in ascolto interessato. Due viaggi e un docufilm lungo le strade percorse da Gavrilo Princip e Franz Ferdinand per raggiungere Sarajevo. Quindi di Eric Gobetti e Simone Malavolti, quindi a quattro mani, per così dire. Il 28 giugno del 14 a Sarajevo due colpi di pistola mettono fine alla Belle Époque e danno origine al secolo breve, il secolo delle guerre mondiali, dei conflitti di massa, dei regimi totalitari, delle grandi ideologie, delle grandi tragedie. Gavrilo Princip e Franz Ferdinand, due uomini, due viaggi verso la fine e l'inizio. A Sarajevo si compiono i loro destini. Oggi, 100 anni dopo, cosa rimane di quel mondo? Cosa rimane della memoria di questi due protagonisti della storia del Novecento? Quindi da Vienna e da Belgrado a Sarajevo, due viaggi fra nazioni, nazionalismi e realtà politiche sovra e pluranazionali, due viaggi attraverso un secolo nel cuore dell'Europa di ieri e di oggi. Ci piace, sembra promettente questa introduzione. C'è un blog apposito in cui ci sono gli aggiornamenti sui lavori in corso e sull'autofinanziamento, sì, del progetto. Si chiama sarajevo14.wordpress.org, ne riparleremo. .com io ho la fissa dell'org. Direi che questo è tutto per stasera. Benissimo, allora continuate a seguirci. Il nostro appuntamento è proprio per martedì prossimo alle ore 21, puntualissimi su My Radio. Durante la settimana potete contattarci tramite il nostro gruppo Facebook Balkout, stavo dicendo, mi continuo. Sì, ragazzi, ho questa tara mentale. Balkan Rock at My Radio. Va bene, per sentire le vecchie puntate potete sempre andare appunto sul sito my-radio.it alla sezione podcast per sentire le vecchie puntate. E a questo punto ci salutiamo, una priatno vece. Una priatno vece, e ascoltiamo l'ultimo pezzo che abbiamo in scaletta ed è degli Hladno Pivo, Teško je ful biti cool. Doviđenja. Nije lako kad si mameno zlato, izgleda ti ovako opako. Nije lako, ali možda baš zato, prođite trnci kad na bjeldani crnci repaju. Kosti te riješu kad mi rafali, osjećaš se tako mali. Jedne naši jake rime, kraj ovakve male domovine. Imaš tempo, imaš bit, samo riješi što ti je loše. Misliš da bi imao hit, ne imaš drugu boju kože. Teško je ful biti cool kad si tu, teško je ful biti cool kad si tu. Mamino zlato, izgleda ti ovako opako. Nije lako, ali možda baš zato, prošte trnci kada pilani crnci repaju. Napalno pa i da inflacija riješi, ti bi htio nešto reći. Osto mraku, osto hvatu, jegorima na pantošaku. Bezko je bol, gdje ti kol, gdje si tu. Zato obilaziš kafiće da bi načuo priče o borbi kvartova, uličnih ratova, skupih troja i skupih satova i svemu što se rimuje na tova. Dobro je na prodaju. Prihvatit ove stvari, ljudi nekad ne žele, najbolji igrač im pele, muzičar zele. Ljudi šišeju, peru kosu, druge su navika, ti si ostoj vetar. Jabuke tvoje ne kuže, vers traje duže, cijeli album ima tekst, ako jedna moja pjesma iz dosta pisao pjesmu. Napravim hit, al ti možeš zaradit, stari hit obradit. Nije lako, treba znat umotat plagijat. Kad se isprazni kasa, bit će te četrasa. Dobra. I za sve seljake radit nerudnjaki. Rebecca!